Essere e benessere di Nicoletta Carbone. E buongiorno a voi, non vedevo l'ora, ci siamo. E c'è quasi da montarsi la testa a leggere i numeri di Mangia con me. Pensate che dal lancio dell'iniziativa, il 13 febbraio, avete risposto in 1000. Penso che avremo qualche problema a trovare tutte le sedie, ma ce la faremo. Ma a parte le battute, dei 1000, pensate, il 57% sono maschi, il 43% femmine, il 70% ha un'età compresa tra i 20 e i 50 anni. E dai dati scopriamo che i maschi mangiano pasto e riso tutti i giorni, mentre noi donne ce li mettiamo un paio di volte alla settimana. A sorpresa, ma di questo sono molto felice, vanno forte la frutta e la verdura, consumate tutti i giorni, rispettivamente dal 74% degli uomini e dall'88% delle donne. Alle dolci tentazioni cedono in misura uguale uomini e donne, almeno un paio di volte alla settimana. Le donne si confermano angeli del focolare dei fornelli, infatti il 74% cucina i pasti tutti i giorni e a differenza degli uomini leggono con attenzione le etichette, il 52% contro un disattento 38%. Dal punto di vista della propensione al cambiamento, gli uomini lo affrontano più serenamente delle donne, un 46% contro un 30%. Ma insomma ce la faremo perché abbiamo due grandi esperti che lavorano con noi e per noi. La dottoressa Paola Reverso, buongiorno. Buongiorno. Medico nutrizionista e presidente dell'associazione Il Me Più Te, il nostro dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Autore di Mangia che ti passa, un libro che ha avuto un grandissimo successo e di cui oggi abbiamo anche alcune copie per i nostri ascoltatori. Dottor Ongaro, dottoressa Reverso, a sentire questi dati siete soddisfatti, immagino. Dottor Ongaro. Beh, dà sicuramente l'idea che l'iniziativa piace e che sempre più persone sono interessate al tema dell'alimentazione. Dà anche l'idea che se si comunica bene la gente risponde. Vedi il dato sulle verdure, sono anni che la comunicazione insiste sull'importanza delle verdure, infatti la gente le mangia sempre di più. Quindi non deludiamo nessuno e cerchiamo di avviarci a questo cambiamento con serenità e con piacere. Allora, intanto io vi ricordo che il nostro questionario è sempre a vostra disposizione. Iscrivetevi, compilate il questionario e potreste essere selezionati e partecipare come protagoniste in diretta a Mangia con me ed essere seguito dai nostri esperti, proprio come è successo al nostro primo partecipante. Davide ha 24 anni, vive a Livorno, si sta laureando in lettere. Ama leggere libri di letteratura classica e romanzi storici, tifoso della Roma e di Capitan Totti. Il suo cantante preferito è Francesco Guccini, ma confessa di avere anche un debole per sua nonna fantastica cuoca che gli ha trasmesso il piacere della buona tavola. Infatti Davide è una buona forchetta. A pranzo mangio sempre un'abbondante pasta fatta dalla mamma o peggio ancora dalla nonna, peggio non per qualità ma probabilmente per calorie, un abbondante contorno e spesso il secondo. Carne rossa, un uovo, un polpettone, un cacciucco, baccalà, la classica caponata toscana che è il saltato in padella di melanzane, peperoni, cipollotti. È sportivo, versatile e dinamico, gioca a calcetto con gli amici, corre e va in bici. Ma un giorno, all'improvviso... Giocando a calcetto con gli amici, un bel giorno mi sono fatto molto male alla caviglia e non ho più praticato attività sportiva di nessun tipo. Ho continuato, sì, con la mia abitudine alimentare, anche aumentata dallo stress per lo studio, quanto sto preparando la mia tesi, e quindi non mi sono preoccupato di diminuire il mio apporto calorico. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Davide è più sedentario, ma non rinuncia al piacere del cibo e nelle attese si fa sedurre da invitanti spuntini. Può capitare magari a metà mattinata di andare in un bar e prendere un tramezzino, ma specialmente quando non ho fatto colazione, oppure anche sì nel pomeriggio un pezzo di focaccia. Magari tornando a casa quando sono affamato e ancora non è pronta la cena mi faccio un panino col formaggio. Tra spuntini, caciucchi, focacce e pezzetti di formaggio, il nostro Davide deve fare i conti con la bilancia. Peso più di 100 kg, 102. Prima ero sui 95-96. E Davide è in linea con noi. Benvenuto Davide! Grazie, buongiorno. Emozionato? Un po', sì, dai. È la prima volta. Allora, senti Davide, prendiamo il passo prendendo le misure. Prima e dopo l'incidente della caviglia, 95-96 kg, sono arrivati a 102 kg. Ma sei alto, sei un pezzo d'uomo, sì, tu. Sì, ti abbiamo visto in foto anche. Possono vederti anche i nostri ascoltatori andando sul sito. Quanto sei alto? 1,91 m. Dottor Ongaro. Beh sì, a sentire i 102 kg ci si può spaventare, però in realtà Davide appunto è 1,91, se calcoliamo il suo indice di massa corporeo, che ricordiamo si calcola facilmente prendendo il peso e dividendolo per l'altezza in metri al quadrato. L'esempio. Comunque classico. Facciamolo semplice, sono 28,3 nel caso di Davide, l'indice di massa corporea, che insomma Davide ti pone un po' in sovrappeso, sei nella prima categoria del sovrappeso e sei ancora all'interno però di quella curva che non compromette, diciamo, la qualità della vita e la longevità. Però ci stai arrivando vicino, Davide, quindi bisogna darsi un po' da fare adesso. Soffermiamoci qua un secondo, Davide. Allora, Davide ha un 28,3, l'indice di massa corporea. I nostri amici da casa possono calcolarlo, è un calcolo molto semplice che ci dice che in fondo i chili non sono tutto, bisogna sempre raffrontarli all'altezza. Facendo la formula molto, molto chiara e dando un po' delle indicazioni per i nostri amici che ci ascoltano da casa per capire se siamo sovrappeso, normopeso, sottopeso, dottor Ongaro? Beh, diciamo che per esempio il 28,3 lo pone fuori dal limite del normopeso, l'ideale oggi si tende a dire che è attorno ai 24 e nel caso di Davide stiamo parlando insomma di una decina di chili di troppo. Probabilmente lui prima dello stop che ha avuto pesava 95, è diciamo leggermente in più dell'ottimale, ma insomma sarebbe già un ottimo target arrivare a quello. Quindi da questo calcolo dell'indice di massa corporea il nostro risultato, per farci stare assolutamente tranquilli, e che indica che ci stiamo muovendo in modo giusto e mangiando nel modo corretto, ma poi lo vedremo, è compreso tra? Beh, compreso diciamo tra i 20 e i 25-26 è quello che possiamo considerare il peso migliore. Calcolate anche il vostro 800 24 00 24, vediamo quanti di voi si avvicinano al 28,3 del nostro amico Davide. Dottor Ongaro, prendendo spunto dalle cose che Davide ci ha raccontato e abbiamo sentito nella nostra scheda, riusciamo a tracciare un profilo suo? Vediamo se Davide si riconosce. Beh Nicoletta, è un profilo molto comune questo, è il profilo di un ragazzo giovane, sano, che però ha sicuramente una tendenza, probabilmente genetica, ad un metabolismo un po' lento, quindi alla minima disattenzione, nel caso di Davide ne ha coppia due, cioè la sedentarietà causata dall'infortunio, ha un certo piacere nel mangiare, ecco che immediatamente si accumulano i chili, quindi sono soggetti che tendono ad aumentare di peso con grande facilità, nei quali l'attenzione all'alimentazione e al movimento deve essere costante. Sentiamo il nostro Davide se si riconosce. Davide? Sì, devo ammettere che mi riconosco a pieno in questa descrizione. Ci ha preso il dottor Ongaro? Sì, alla grande. E quindi anche da ragazzino eri così? Sì, diciamo che ho sempre combattuto con la bilancia per risultare quantomeno presentabile, comunque per presentare in maniera buona la mia qualità di vita. E negli ultimi anni ero riuscito quasi a spuntarla con molta attività sportiva e una buona attenzione. Attenzione che adesso è un po' calata e... Certo, diciamo che Davide, la nonna e la mamma ti viziano un po' anche. Sì, la tentazione è forte. Ma ho visto, nel tuo profilo ci hai dato anche un po' qualche ricetta, quella del cipollotto peperone, eh? Quindi tu sei anche un appassionato. Sì, sì, no, diciamo che non mi tiro mai indietro quando c'è il piatto davanti bello pieno. Dottoressa Reverso, dal punto di vista del gusto, a Davide è un buon gustaio, una buona forchetta, ha la nonna e la mamma che cucinano per lui, ma come nella stessa condizione di Davide si trovano tante persone che tornano a casa dal lavoro e trovano qualcuno che ha preparato per loro, solitamente noi angeli del focolare. Quindi qual è la caratteristica proprio di Davide? Che profilo ha? Davide è proprio è un profilo appunto tipico della sua età, con la mamma e la nonna che lo viziano, con la fame, con il piacere della buona tavola. Prima faceva attività fisica e si consolava, diceva: ho fatto una buona attività fisica, adesso mi godo un bel piatto, fatto bene, me lo gusto. Solo che adesso, facendo meno attività fisica, però aggiunto lo stress della tesi, dice: vabbè, comunque il piatto di pasta me lo godo lo stesso, perché a questo punto me lo merito, sto studiando. Davide, i tuoi piatti preferiti, ricordiamolo, sono? Ma diciamo che ne ho molti e l'elenco sarebbe lungo. Comunque le polpette, le cotolette alla milanese della nonna, le lasagne, il polpettone, carne rossa, il caciucco, sì. E la pasta, che per me non può mai mancare, un elemento primario a tavola, la verdura, che mi piace in tutti i modi, almeno quella mi aiuta in un certo verso, la mangio sia cruda che cotta, quasi tutta. E poi gli spuntini col formaggio. E gli spuntini col formaggio. Durante, sì. Nell'attesa uno apre il frigorifero. Esatto. Allora, adesso è arrivato il momento del nostro primo quiz. Rispondete, cari amici, all'800 24 00 24, ma attenzione, argomentando. Quindi fate la vostra scelta e siate pronti a sostenere la vostra tesi. Per voi, per quello che il dottor Ungaro e la dottoressa Reverso riterranno l'ascoltatore più attendibile, più in linea, diciamo, con lo stile Mangia con me, i libri del un libro del dottor Ungaro. Ma dottor Ungaro, possiamo esagerare, no? Se le risposte sono tante, ne daremo di mangia più. Che ti passa. Andiamo. Che cosa deve fare Davide? Saltare la colazione? Sostituire i cereali come pasta, pane e riso con le versioni integrali? Fare un giorno di digiuno alla settimana? 800 24 00 24, chiamate il nostro numero verde, date la risposta, argomentatela. Per chi dà la risposta migliore, più ricca, più salutare, il libro del dottor Ungaro, Mangia che ti passa. Ma intanto, allora, sentiamo un po' quale programma avete pensato per Davide. Dottor Ungaro. Allora, Davide bisogna sbloccarlo un po'. La prima cosa che bisogna fare è proprio sbloccare lui, nel senso che deve rimettersi in moto. E non è diciamo raro quello che è successo a Davide, cioè questi sport molto attivi come il calcetto, gli infortuni sono molto frequenti. Dopo ne parleremo in più nel dettaglio, ma insomma lui deve riprendere in mano l'attività fisica in maniera regolare, perché deve bruciare di più. L'altra cosa su cui io farei molta attenzione sono gli spuntini, cioè questa sensazione che io ho dal profilo di Davide è che ci sia anche una componente di nervosismo che fa sì che ogni volta che sta aspettando qualcosa, arriva a casa, eccetera, lui tenda a mangiare con un approccio molto inconsapevole, quindi quello che trova mangia, e lì si aggiungono un sacco di calorie e un sacco di cibi che non sono assolutamente i cibi ideali. Quindi sarà un primo, secondo me, step importante quello dell'attività fisica, e quello del cambiare quegli spuntini in degli spuntini sani. Quindi, dottor Ungaro, tornando sempre ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo, gli ascoltatori che si riconoscono nel profilo di Davide, quindi sono persone che tendono ad ingrassare rapidamente se non fanno attività, appena si fermano, appena anche sono un pochino più stressati, adorano la buona tavola, che cosa possiamo aggiungere? Amano fare gli spuntini. Quindi vi riconoscete in Davide, attenzione anche al profilo, che al programma che ha pensato la dottoressa Reverso insieme al dottor Ungaro, e che troverete insieme ad altri programmi e ad altre indicazioni sulla pagina di Mangia con me. Dottoressa Reverso. Allora, Davide ha due punti di forza. Il primo, più importante, è che ama le verdure, sia cotte che crude. Quindi uno spuntino, oppure nel momento dell'attesa, visto che lui ha questo anche momento dell'attesa della cena, sgranocchiare le verdure crude, direi che potrebbe essere il primo passo. Poi la pasta, lui ama la pasta, quindi magari alternare a quella di grano duro che comunque ha un basso indice glicemico. Cosa vuol dire? Che alza la nostra glicemia lentamente. Questa è una buona cosa quando si desidera perdere peso. Può provare con della pasta integrale, e poi la pasta è saziante, quindi basta masticarla lentamente. Insieme alla pasta magari potremmo aggiungere dei legumi, e in questo modo riduciamo anche un pochettino quello che è il consumo di carne. Perché da buon toscano, Davide, tu mangi la carne rossa. Sì, prevalentemente carne rossa. Allora, il programma che i nostri esperti hanno pensato su Davide, che è un programma di alimentare, ma sentiremo tra poco anche un programma per rimettersi un pochino in pista, muoversi un po', perché Davide per fortuna ama fare sport, ma ha la caviglia che lo blocca. Lo potete trovare naturalmente sulla pagina di Mangia con me. Ma Davide, tu sei pronto ad affrontare questo percorso? Pronto innanzitutto a provarci, con entusiasmo. E ti farai aiutare anche dalla mamma e dalla nonna? Sì, sì, è una collaborazione indispensabile, quindi ci parlerò e vedremo di fare un intento comune. Allora, Davide, però tu lo sai, avrai degli alti e bassi, no? Perché inevitabilmente noi, per sostenerti, li abbiamo invitati a fare il tifo per te. Gli alti e bassi, però, di cui parlo io, sono un quintetto vocale a cappella che ha partecipato alle più importanti stagioni concertistiche, classiche, jazz, festival internazionali, trasmissioni televisive e radiofoniche in Italia e all'estero. E per te, come per tutti i nostri prossimi partecipanti, gli alti e bassi hanno pensato ad un brano che ti rappresenta. Tu dovresti prenderlo, almeno questo è noi ti proponiamo e vorremmo che accadesse, di prenderlo un po' come una sorta di colonna sonora del tuo cambiamento. Interessante. Ti piace? Interessante, vi ringrazio, sì. Senti, qui con noi c'è Andrea Thomas Gambetti, che è uno dei cinque. Ciao, buongiorno, Andrea. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Andiamo a sentire che sì, cosa avete scelto per lui? Andiamo. Non gioco più, ti assicuro, se ti faccio male, poi ti passerà. Tanto il mondo come prima, senza voglia girerà. Non gioco. Davide, puoi scaricartela, sul, certo, lo farò. Te lo metti nel tuo iPod intanto che fai attività sportiva, riprendi a farla. Ma sentiamo da Andrea, perché avete scelto proprio Non gioco più? Sì, la dedichiamo a Davide perché lui si è slogato la caviglia e quindi a un certo punto non è riuscito più a svolgere l'attività sportiva, quindi non gioca più. Ma la frase che più ci ha colpito della canzone, del nostro brano, è "io cambio e chi non cambia resta là", che è una frase molto indicativa perché rappresenta proprio la voglia, la necessità di dare una svolta, di ottenere un cambiamento, ed è una cosa che volendo è assolutamente realizzabile per chiunque, basta deciderlo, basta veramente voltare pagina. E quindi dedichiamo a Davide "Non gioco più" per questa ragione. Davide? Vi ringrazio, sarà il mio mantra di incoraggiamento. Ma Davide, aspetta, perché per te e per tutte le persone che hanno smesso di fare attività fisica, pur essendo degli sportivi nel cuore e nell'animo, perché magari hanno cambiato ritmi di lavoro, magari hanno trovato una fidanzata che non vuole staccarsi da loro, o un fidanzato, oppure si sono slogati una caviglia, si sono fatti male all'alluce, insomma hanno preso uno stop e vogliono ricominciare, abbiamo il nostro dottor Confalonieri. Dottor Confalonieri, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti, buongiorno Davide. Entra anche buongiorno lui a far parte della squadra. Davide, stai lì, dottor Confalonieri e i nostri esperti qua in studio bloccati, perché cari amici, ricordandovi di rispondere al nostro quiz, rispondere agli stimoli che vi abbiamo mandato. Essere e benessere. Davvero la faccia di cemento, tu parli e non ti sento, io cambio e chi non cambia resta là. E Davide, il protagonista, il primo protagonista di Mangia con me, cambia, ha deciso di cambiare, di affidarsi ai consigli dei nostri esperti. Stiamo sentendo il brano che gli alti e bassi hanno scelto per lui come colonna sonora del suo cambiamento. Qua con noi abbiamo Andrea, tra l'altro voi cantate senza strumenti. Sì, quello che state ascoltando è solo la nostra, le nostre cinque voci, non c'è alcuno strumento, anche la batteria, il basso sono realizzate con la nostra voce, quindi è molto semplice, molto naturale. Dottor Confalonieri, la musica noi ce l'abbiamo, il programma, il programma alimentare lo racconteremo tra poco, adesso bisogna farlo muovere e Davide puoi già subito lamentarti, eh? Andate, parlate tra di voi. Benissimo, allora io partirei con due obiettivi in questa prima settimana. Il primo obiettivo è recuperare in toto la funzionalità della caviglia, perché insomma in prospettiva vogliamo ricominciare a correre, a giocare a calcio. Purtroppo qua la cosa è un po' più complessa, perché si tratta comunque di un ragazzo alto e pesante e quindi la caviglia è molto sollecitata. Quindi due o tre volte a settimana sarà necessario fare un lavoro proprio mirato al recupero della sensibilità e della mobilizzazione del piede della caviglia, utilizzando queste tavolette proprio-recettive che si possono noleggiare in qualsiasi farmacia, e io ho preparato un programma che Davide riceverà oggi proprio di sempre sul nostro sito, certo, è consultabile da tutti sul sito, di esercizi specifici per recuperare la funzionalità ottimale della caviglia. Al contempo però bisogna cominciare a lavorare sull'incremento del consumo calorico e quindi ottimizzare la perdita di peso, che sarà l'obiettivo del lavoro dei medici con cui Davide è in contatto. E non possiamo fare ancora questo con la corsa, sì, perché non possiamo ovviamente sovraccaricare una caviglia che deve recuperare la funzionalità ottimale, però cominciamo a farlo con la bicicletta. Ok. E il mio consiglio è di lavorare tre volte alla settimana in bicicletta, una volta magari durante il weekend con un'uscita lunga. Per uscita lunga questa prima settimana intendo dai 60 ai 90 minuti fatti con un'intensità modesta ma costante, e poi con due uscite brevi, in modo che il lavoro globale sia su tre volte a settimana intorno ai 45-60 minuti. Qualora ci fosse brutto tempo o Davide fosse una persona in grado di galleggiare, queste uscite in bicicletta potrebbero anche essere sostituite con 30-40 minuti. Ma certo, di vive a Livorno, vuole che non sappia galleggiare, non Davide. Davide, certo. Ma certo, sì, ma questi che ci dicono? Preferisco la bicicletta. Preferisce la bicicletta. Ecco, lo immaginavo. Allora, dottor Confalonieri, questo è il primo step, ma lei lo seguirà per altre tre settimane. Certo, trovate tutto. Se Davide è d'accordo, un impegno con tre volte alla settimana, un impegno abbastanza prolungato, tre volte un impegno con tempi ridotti, un giorno di riposo, incrementando gradualmente il carico in modo da portarlo in forma ottimale e in grado di giocare di nuovo a calcetto per con una caviglia perfettamente funzionante nel giro di 8-12 settimane. Volevo chiederle, questo programma che trovate sul nostro sito, dottor Confalonieri, facciamo una prescrizione, adatto alle persone che vogliono riprendere a fare attività fisica. Davide dovrà rinforzare la caviglia, chi non deve rinforzare la caviglia però può utilizzare queste indicazioni del dottor Confalonieri, ecco, per affacciarsi alla primavera. Dottor Confalonieri, grazie. Noi metteremo il programma sul sito. Grazie. Recuperando in concreto Davide e le persone che, ricordo, si riconoscono in Davide, quindi hanno tendenza a ingrassare se non fanno attività fisica, amano mangiare, sono leggermente in sovrappeso e decidono di riprendere gradualmente l'attività fisica, un profilo su cui in tanti possono riconoscerci. Concretamente andiamo a capire che cosa si fa, perché poi i nostri ascoltatori sono chiamati a rispondere al nostro quiz. Intanto che voi raccogliete le idee, mandiamo il nostro quiz di nuovo 800 24 00 24 per rispondere che cosa deve fare Davide. Che cosa deve fare Davide? Saltare la colazione? Sostituire i cereali come pasta, pane e riso con le versioni integrali? Fare un giorno di digiuno alla settimana? 800 24 0024. Dottoressa Reverso, dottor Ungaro, concretamente come ci muoviamo? Partiamo dal dottor Ungaro. Allora, ricordiamo rapidissimamente che per l'indice di massa corporea basta andare sul nostro sito e c'è un sistemino che calcolerà direttamente l'indice, perché sono arrivati 300 messaggi su come si fa, quindi si fa andando sul nostro sito, è molto semplice. Bravo, partiamo, scrivendo, esatto, partiamo dalla colazione di Davide. Lui mangia tanto nel corso della giornata e tende ad aumentare verso sera, bisogna invertire la tendenza e iniziamo leggeri con una colazione, per esempio introducendo dei frullati o delle centrifughe, o anche per esempio dello yogurt magro senza zucchero, o anche dello yogurt vegetale come per esempio quello di soia. Davide, ti piace o non ti piace? Diciamo che si può provare, dai. Si deve provare. Pensa al cacciucco, pensa al polpettone intanto. Vai. Allora, oltre alla pasta, Davide, ti propongo due cereali: il farro, che è tipico toscano, e il kamut, che è un cereale, è un grano duro, è molto piacevole e anche gustoso. Sazia. E la stessa cosa vale per il pane: tu tendi a mangiare tanto pane, sostituiamo quello splendido pane toscano con del pane integrale al 100%, che ha un effetto sul tuo metabolismo completamente diverso. Perché? Beh, è sempre il discorso dell'indice glicemico, cioè di quanto fa aumentare la glicemia nel sangue. E come spuntino, Davide, al pomeriggio io ti propongo della frutta fresca con una fetta di pane integrale, e magari ci aggiungiamo anche un altro alimento, scegli tu, che sia sano però. Adesso non svenire, Davide, ma per i tuoi spuntini, visto che ti piacciono le verdure, cerchiamo di sostituire quel formaggio e quel pane che mangi così un po' voracemente con delle verdure che ti saziano prima di sederti a tavola a cena. Beh, Davide, ti sento è svenuto. Sul formaggio. Beh, però glieli lasciamo un po', qualche pezzetto di formaggio, no, a Davide? Possiamo lasciargli qualche pezzetto, però io, a me piacciono i risultati, Nicoletta, quindi Davide deve perdere un po' di peso rapidamente, poi piano piano nel tempo riprenderà una maggiore varietà nella sua alimentazione. E ricordiamoci che a Davide ama anche la pizza, la focaccia, si possono fare con delle ottime farine integrali. Quindi mettiamo sotto la nonna e la mamma con le farine integrali. Volevo chiedere al mio alto e basso, eccomi, al mio degli alti e bassi, questo che cosa ti... c'è una traduzione in musica, in voce, in strumento di quello che il dottor Ungaro e la dottoressa Reverso sì, hanno raccontato? In parte sì, perché la musica è costituita da svariate variabili, no? Abbiamo il genere musicale, il ritmo, l'atmosfera, gli strumenti. Ecco, per esempio, gli strumenti sono i nostri ingredienti, quindi qualunque compositore, qualunque musicista stabilisce gli ingredienti e stabilisce come trovare il giusto equilibrio affinché si raggiunga l'armonia. Davide, noi tra poco a questo punto possiamo lasciarti e ti abbiamo dato tutte le informazioni. Tu avrai a disposizione naturalmente uno spazio nella pagina di Mangia con me, dove tu racconterai, quando ti piacerà, un po' il tuo diario, che cosa, se le indicazioni dei nostri esperti ti piacciono, riesci ad applicarle, ti danno soddisfazione. Naturalmente i nostri esperti ti seguiranno, ci saranno delle ricette, c'è il programma alimentare che è molto gustoso, che potete seguire anche voi da casa, e parlerai anche con il dottor Ungaro e la dottoressa Reverso, ti daremo appuntamento, andate a vedere sul sito perché apparirà proprio l'appuntamento, si dice online, no? In cui i nostri esperti saranno a vostra disposizione. Davide, mi raccomando, conto su di te. Io vi ringrazio, ce la metterò tutta, ringrazio i bravissimi alti e bassi e grazie, vi terrò aggiornati. Vai con gli alti e bassi, più alti che bassi. Grazie a Davide, adesso molti di voi ci stanno rispondendo, un po' chiedendo questo indice di massa corporea che, come il dottor Ungaro vi ha detto, fate il questionario perché siete in mille ad averlo fatto. Ma già molti di voi anche mi hanno scritto che scrivere nero su bianco le proprie abitudini alimentari è già un esercizio per prendere consapevolezza dei propri errori oppure delle proprie abitudini, perché alcuni di voi mangiano già in modo molto perfetto, si vede dal questionario e dai dati che abbiamo recuperato. Quindi l'invito è: scrivete, fate il questionario, potreste essere selezionati, perché le selezioni sono sempre in corso, vogliamo dare la possibilità a voi di entrare, a diventare protagonisti. Essere e benessere. Eccoci, siamo tornati. Magari Davide è ancora all'ascolto, perché parliamo anche di spuntini, vogliamo capire voi come preparate, se mangiate fuori pasto, che cosa preparate. se siete più orientati verso il dolce, verso il salato. Ma intanto Stefano ci chiama da Modena. Buongiorno Stefano, mi dicono dalla regia che lei vuole rispondere al nostro quizzettone. Esatto, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci racconti? Allora, sì. Dunque ho 51 anni, sì? E quindi per fare le risposte direttamente, ma secondo sì. me deve fare la colazione tutte le mattine. Sì. Secondo me deve sostituire i cereali da prima colazione con cereali da prima colazione integrali, oppure aggiungere un po' di proteine quando fa colazione al mattino. Sì. E anche usare quelli che sono considerati dei grassi buoni, cioè della frutta secca o cose di questo tipo, tipo nocciole, tipo anacardi o cose di questo tipo. Non deve assolutamente fare il digiuno, deve passare i cereali integrali e credo che negli spuntini possa anche mangiare del formaggio, se magari è del parmigiano, del grana o del pecorino comunque, sì. Però in proporzioni molto più piccole rispetto magari a dei pezzi magari un po' troppo abbondanti. E aggiungendo a questo chiaramente frutta e verdura a volontà. Ma Stefano da Modena, io la bacerei, lo prendiamo come membro dello staff. Ma Stefano è bravissimo. È vero, come mi faceva notare un'ascoltatrice, che noi non dovremmo dare i libri di Filippo Ungaro a chi risponde bene, perché già sa, ma chi risponde male. Ma ecco, allora mandatemi una risposta assolutamente astrusa, mandiamo un messaggio, un libro anche a voi. Stefano, complimenti. Grazie, grazie. Io devo però dire una cosa, che è un medico, nutrizionista, ed è cugino di Filippo Ungaro. No, nemmeno. No, che 2 anni fa pesavo 92 kg, ero alto 1,83 m. Adesso è diventato 1,62 79 e ho seguito però la dieta zona ed ero molto interessato a leggere il libro del dottor Ungaro. E quindi ecco che troverà conferma molte delle cose che ci ha detto. Ma grazie Stefano. Da Modena ritorniamo penso qua a Milano e, come vi avevamo annunciato, abbiamo in linea con noi il bello del trio, alias Giacomo Poretti. Grazie, buongiorno Giacomo. Ma sono bello grazie al fatto che mi alimento in maniera corretta, cioè uno bello può diventarlo, sappiatelo. Non è la genetica. No. Sono antigenetista io. E quindi sono nato brutto e divenuto bello. Però guarda che è vero, tutti mi dicono che sei bello, eh? Cosa mangi, Giacomo? Ma in generale al mattino... Dici tu quello che vuoi, non voglio essere invadente. Allora, fino a qualche anno fa... E mangiavo un po' di tutto, senza riguardo, senza fare attenzione a certe cose. Poi, un po' perché si va un po' in là con l'età, un po' perché il mio socio Giovanni, un po' salutista, si è messo a correre, eccetera, e quindi stiamo molto attenti all'alimentazione, anche in casa mia con mia moglie, per cui da 2 o 3 anni cerchiamo di mangiare sempre pasta e riso integrale. E al mattino soprattutto la cosa importante è che al mattino facciamo colazione come si deve, no? Cioè si mangia tanto, una bella colazione, cercando di mangiare cereali integrali, frutta secca e altre cose. E guarda che bellezza, Giacomo. Vorrei evitare, credo che non ce la farò mai perché mi piace troppo, non dico eliminarla del tutto, la carne e i salumi, ma metterli un po' da parte, però faccio fatica perché mi piace, ma sento e sono d'accordo che non fa benissimo, no? Intendi quindi carne rossa, ma sentiamo sì. un pochino, perché questo è un po' il problema di chi ama, cioè chi la carne la ama e non sente proprio una sorta di, oltre che del piacere di mangiare magari i salumi eccetera e sai i gusti, ma possiamo comunque cercare di salvare un po' le due cose, cioè consumarla in modo magari corretto, senza eccedere nella quantità e anche nella frequenza. Ci sono delle alternative, perché Non si può dire ad una persona che, a cui piacciono i salumi, si sgranocchi due mele secche, dottoressa. No, perché sai che loro fanno un po' così, la dottoressa Reverso mi dice no, so. ma mangia una mela secca che mastichi. No, scusi dottoressa, però io ho provato un paio di volte a organizzare degli aperitivi a casa mia e mettendo le mele secche si fa fatica. Non più, fa fatica, e poi ti mandano a quel paese, allora. E delle mandorle al Kerry? No, ma si figuri, ma guardi, certo. Con me sfondo la porta aperta, il problema è che... Gli amici. Però Giacomo, per quello che riguarda la carne, la cosa più importante, al di là della scelta individuale se inserirla o meno, è la provenienza. Questa è la cosa che conta di più, quindi è la qualità della carne e la vita che ha fatto quell'animale, quindi per esempio tutte le iniziative tipo chilometro zero e quindi la filiera corta danno qualche garanzia in più di mangiare degli animali perlomeno allevati secondo dei criteri corretti. Mi raccomando, questo non è un invito, perché io poi ho i miei amici che mi scrivono, vegetariani che mi scrivono no, la carne, cioè ognuno poi esatto, all'interno delle... di scelte individuali. Senti Giacomo, ma ad esempio tu hai un bambino e quindi secondo me il fare colazione insieme, tante di noi sono ritornati a fare colazione quando con i bambini, ecco, il tuo bambino ha una merenda che gli piace in modo particolare? Quando a scuola porta la merenda, che cosa gli mettete nel suo saccottino? Allora, perché le mie figlie, a proposito di mele secche, quando io le davo le mele e vedevano le altre bambine, gli altri bambini che si mangiavano focacce eccetera, arrivavano a casa che erano imbufalite, ecco. Poi adesso no, questo è vero, ma il mio bimbo allora ha 5 anni e mezzo, per cui ed è un po' come me quando ero piccolino, così mangia poco, però stamattina, queste due mattine, mi sta dando una soddisfazione incredibile, perché lui mangia il latte con il crunch, che sarebbero una specie di muesli croccante, sì, col cioccolato, insomma, che sto anche attento a quello che c'è dentro, mi sembra buono. Allora sono due mattine che io faccio colazione con le gallette di riso, una spalmatina di miele e la frutta secca, e lui mi ha detto papà vorrei anch'io il riso soffiato col miele, se l'ha sgranocchiato e gli è piaciuto molto, mi dà soddisfazione, insomma. Dai, ma vedi, adesso non è che voglio fare il fenomeno, però spero, e credo che i medici me lo confermeranno, che bisogna fare una battaglia contro queste merendine adesso, senza però, cioè, i bimbi sono ghiotti e le aziende alimentari fanno bene, fanno il loro mestiere, però non è che facciano tanto bene certi biscotti, certe merendine. Io vorrei non dargliele, insomma. Sono completamente d'accordo, e i bambini sono tanto diciamo flessibili nell'accettare queste cose non molto sane, così come possono essere assolutamente flessibili, se lo facciamo con divertimento e gusto, ad introdurre nella dieta delle cose invece sane. No, ma infatti poi non parlo più, però ho notato che io e mia moglie, quando facciamo la colazione, se tu guarnisci i cibi e glieli fai in modo divertente, loro magari per curiosità mangiano, ma così almeno assaggiano delle cose differenti. Certo. Se no, insomma, una battaglia un po' così con i bimbi, insomma. E no, io anche per i bambini noi abbiamo qualche consiglio da dare. Quelli che ha dato Giacomo, ad esempio, vanno benissimo, perché se il bambino gli catturi un po' con la curiosità, gli fai e anche gli fai vedere delle cose carine, mangiano più volentieri. Ma abbiamo anche i consigli di Ludovica, questo personaggio che è stato ideato. Ti faremo avere il libro, Giacomo, ideato dalla nostra dottoressa Reverso, che ha fatto un grande lavorone, perché sta portando proprio ai bambini piccoli, quelli delle asili o delle elementari, lei riesce a fargli mangiare i cereali, vero? Fare le cose integrali, per cui tante ricettine anche che possiamo mettere anche sul nostro sito, sì, e il libro di Ludovica, La foresta dei cristalli di zucchero, che tra l'altro è una fiaba bellissima, che faremo ricevere a casa a Giacomo, ringraziandolo. Grazie, continua a nutrirti così bene, che sei sempre il più bello. Grazie Nico. No, sei bella, ma lo anche sa, tu, ma i tuoi ospiti. Grazie a Giacomo Poretti. Bocca al lupo. Crepi. Crepi. Che profilo gli diamo a Giacomo? Come gli alti e bassi? Che strumento, che musica, che sonorità? Giacomo lo vedo bene con la chitarra elettrica, imitando la chitarra elettrica, perché noi imitiamo gli strumenti con Dai. Le voci. Possiamo farlo? Sì, comunque lui è bello perché gli altri due sono brutti. Lui è bello, a me piacciono anche gli altri due. Giacomo, io ho una passione. Ma tu riesci a farci uno strumento qua? Questa è una tromba. E quindi poi quando verremo tutti e cinque sentirete anche la batteria, il basso e tutto, dai. Allora noi abbiamo qua un appuntamento con gli alti e bassi per sonorità piene. Abbiamo Bruno da Padova, possiamo? No. 30 secondi, Bruno, posso dirle una cosa? Possiamo sentirci su Facebook o Essere Benessere radio24.it, perché ho Carmelo Lauricella che mi uccide se io sforo e mi taglia tutte le volte. Bruno, l'aspetto su Facebook. Grazie Bruno, grazie al dottor Ongaro, alla dottoressa Reversa, agli alti e bassi, a voi, continuate a scriverci, a chiamarci, scaricateci, insomma restate con noi. Mangia con me.